buongiorno, buongiorno a tutte e tutti, in particolare a coloro che si trovano al di là delle sbarre. Sono le 14:59:50, quindi mancano pochi secondi allo scattare delle 15, che scattano ora, e quindi inizia la trasmissione contro il carcere di Radio Onda Rossa. Oggi è mercoledì, e quindi come il 5 di dicembre, e ci stiamo avvicinando alla fine dell'anno, e come ogni fine dell'anno, ormai da 20 anni circa, questa radio organizza insieme ad altre realtà romane che sono contro il carcere, che criticano il carcere, che insomma lavorano per farla finita col sistema della detenzione carceraria, ebbene ci incontriamo sotto il carcere di Rebibbia, che è il più grosso carcere di Roma, ma anche uno dei più grandi d'Europa. È un grosso complesso il carcere di Rebibbia, è un complesso carcerario, dentro ci sono ben 4 carceri, ci sta il nuovo complesso, che è il carcere giudiziario cosiddetto, che è enorme, ha oltre 1500 persone dentro, poi ha il reclusorio, che sta invece, che uno sta su via Maglietti, il nuovo complesso, su via Bartolo Longo, c'è la casa di reclusione che arriva a 450-500 posti, poi c'è il femminile e poi la terza casa o casa di custodia attenuata, dove una volta ci mettevano le persone tossicodipendenti, ma più o meno ancora quelle situazioni lì. Quindi 4 carceri in un complesso carcerario enorme, grande, lo vedete passando dalla Tiburtina. Ebbene, noi ci vediamo là sotto, all'incrocio proprio tra via Maglietti e via Bartolo Longo, e dove c'è l'angolo di quelle grosse mura. Ci vediamo il 31 lì, a partire dalle 10. Avete sentito poco fa lo spot che chiama insomma questo incontro. È importante quest'anno, importante tutti gli anni, è importante ovviamente, per un punto fondamentale è dare così un saluto a chi sta dentro, non farli sentire soli. Il grido che è silenzioso attraverso la musica, i canti, le chiacchiere, diciamo il messaggio che vogliamo comunicare è: non siete soli, non siete soli né sole, non vi abbandoniamo là sotto nei giorni di festa e negli altri giorni, perché questo è importante. Chi sta dietro le mura deve sentirsi parte della realtà sociale, a pari di chi sta in fabbrica, di chi sta al cantiere, di chi sta a scuola, di chi sta ficcato in qualche altra parte, chi sta in ospedale, eccetera. Siamo tutti elementi di questa società, e tutti quanti dovremmo appunto collaborare per la parte che sta più in basso, che comunque, se volete, subisce di più le angherie di quest'ordine esistente. Ebbene, dovremmo cercare di mettersi insieme per cambiare questa società, e tutti, e col contributo di tutti, appunto i carcerati, gli operai, i lavoratori, gli studenti, le massaie, i fruttaroli, tutti quelli che stanno appunto nelle parti basse di questa società devono mettersi insieme. Per cui noi le persone dietro le sbarre le consideriamo non come reietti scansati che sono stati così allontanati, scartati come se fossero degli scarti, ma come delle persone come noi, che con i quali cerchiamo di interloquire. Certo, c'è la difficoltà di avere quelle mura, quelle sbarre, però appunto con un buon megafono si riesce a parlare. E poi ci stanno le lettere, infatti stiamo già inviando la scarcerando appena uscita, al di là delle sbarre, anche quello è un momento di comunicazione. Poi ci verranno le lettere in cui ci ringraziano e ci raccontano quello che è la realtà del carcere, così come ci hanno mandato le lettere per chiedere la scarcerando, e a volte di seguito c'era anche raccontavano i problemi che si vivono in carcere. Tantissimi sono i problemi in carcere, e tantissimi, noi sono 20 anni che facciamo questa trasmissione, ha cambiato nome 15 anni fa, però sempre questa trasmissione contro il carcere. Ebbene, abbiamo, come dire, pure non abbiamo finito di dire tutti i problemi, pensate quanti ce ne stanno. È ovvio, perché è una persona che gli si toglie il bene più prezioso, che è la libertà, è chiaro che vengono fuori tutti i problemi di questo mondo. Allora, noi lo vedremo, infatti poi si manifestano in varie maniere, no? Gli eventi critici li chiamano i tecnici della carcerazione, no, del ministero, i funzionari del ministero. Gli eventi critici sono scontri, aggressioni, proteste, battiture, fermate all'aria, tutto quello che succede in carcere, scioperi della fame a volte, eccetera. Dunque, intanto dobbiamo vedere che appunto questo 31 è importante, ci vediamo quindi alle 10, a partire dalle 10 fino a che tramonta il sole, quindi fino a verso le 3:30-4, poi ci fa buio, 4 così. Ci vediamo lì perché è importante, intanto perché lì passano appunto i familiari che vanno a fare il colloquio del 31, a portare qualcosa da mangiare a chi sta dentro. E poi appunto per lanciare messaggi, urla, musica, grida, saluti, insomma, non fare sentire sole le persone che stanno al di là delle sbarre, ma anche perché vorremmo appunto, visto che ci ricorrono 20 anni di scarceranda, 20 anni dell'appuntamento del 31, insomma stanno succedendo tante cose in questo paese, molte brutte, anzi tutte brutte. Avete visto il decreto sicurezza di Salvini, che è la prosecuzione del decreto sicurezza di Minniti, fatto lo scorso anno, questo pure fatto quest'anno, tutti e due fatti con la fiducia al governo, quindi nemmeno, evitando anche il dibattito parlamentare. Pensate un po', hanno paura del dibattito parlamentare, immaginate come gradirebbero il dibattito sociale, no, all'interno. E questa è la realtà, quindi cose orribili, cioè in quello abbiamo già un po' parlato, se volete ne parleremo ancora. Si torna dopo 500 anni a punire il vagabondaggio, che in realtà, non, appunto, a parte il 1500, alla fine del 1500 fu punito, ma allora questi paesi che iniziavano questa situazione orribile, dittatoriale, quasi peggio che dittatoriale, stavano concentrando tutte le forze per fare il grosso salto verso l'industrializzazione, verso la creazione dei grandi aggregati di manodopera per sviluppare la produzione e diventare potenti, ricchi, eccetera. Quindi voglio dire, la giustificazione è orribile, però quei campi di concentramento che erano appunto queste fabbriche, perché le prime fabbriche, diciamo, avvengono nei campi, no? La raccolta e la trasformazione dei prodotti ortofrutticoli è il primo esempio di messa insieme, diciamo, di forza lavoro, che non aveva nient'altro, non aveva nulla e niente nemmeno da mangiare, quindi venivano salarizzati, cioè in cambio del lavoro gli si dava un salario per campare, e poi dopo si trasferì in fabbrica. Cioè, voglio dire, dopo 500 anni questa cosa non è stata più usata, perché sai, le associazioni caritatevoli di origine religiosa o di altro hanno dato sempre una mano ai mendicanti, ai vagabondi. Adesso è diventato un reato, un reato fare il vagabondo, cioè, nemmeno sui miserabili di Vittorio Hugo si leggono, cioè è veramente il punto più basso raggiunto questi giorni di questo paese, ma non solo, in genere dell'Europa, è il punto più basso che sta raggiungendo, uno dei punti più bassi. Allora è chiaro che in questo periodo non ha senso difendere un pezzetto qua, un pezzetto là, ci attaccano qui, anche l'occupazione di casa è diventata un reato punito col carcere, cioè, lo sapete, l'abbiamo raccontato, lo riracconteremo, sta pure su Scarceranda, quello che volete, insomma. Il problema è che facciamo? Difendiamo centimetro per centimetro laddove veniamo attaccati? No, non serve, non è funzionale questa cosa qui, perché è una difesa estrema, perché è un arretramento comunque, bisogna invece rilanciare. Ecco, noi stiamo parlando di carcere, anche qui avvengono, buttano al mare le riforme, peggiorano la condizione, arrestano sempre più persone. Si è superata la soglia dei 60.000 presenze in carcere, 10.000 in più di quanto ne conterrebbero fisiologicamente le strutture penitenziarie, quindi 60.000, come ai tempi dell'emergenza carcere, ricordate, no? Ecco, nonostante i reati che calano, aumentano le presenze in carcere. Poi viene arrestata sempre più gente, l'arresto è diventato un andamento normale, diciamo. normale, sì, normale per loro, certo. Allora, di fronte a questo che facciamo? Ci lamentiamo, cominciamo a piangere, chiediamo qui, anche qui, no, per qualche forza politica che interceda? No, nessuno può intercedere, perché l'abbiamo detto, una maggioranza del governo, una maggioranza parlamentare, l'altro anno ha varato il decreto Minniti, decreto sicurezza Minniti. L'altra maggioranza, cioè quelli che stavano nella maggioranza di allora non stanno in quella di oggi, quelli che stanno in questa di oggi non stavano in quella di allora, quindi il sistema parlamentare si è diviso in due blocchi, metà ha approvato il decreto Minniti dello scorso anno, l'altra metà ha approvato il decreto Salvini di quest'anno. Sono praticamente due, come dire, due facce di una stessa medaglia, cioè sono uno la continuità dell'altra, non dell'altro. Non c'è, il Minniti ha dovuto andare un po' più con i piedi felpati perché stava muovendosi su un terreno a rischio di anticostituzionalità e infatti ha dovuto fare qualche piccolo passo indietro. Cioè, Salvini è andato tutto fuori i margini di anticostituzionalità, però il problema è questo, voglio dire, loro lo sanno che il potere, la Corte Costituzionale può fare, a parte che i giudici vengono anche cambiati dallo stesso maggioranza parlamentare, dal Parlamento, dal Governo, eccetera, due terzi, un terzo al Parlamento, un terzo dal Governo e l'altro terzo dalla magistratura stessa, però appunto è il politico che è detta, ma comunque sia, la Corte Costituzionale non può sostituirsi al Governo, vuol dire che qualche norma ed è un lungo cammino fare la richiesta di incostituzionalità per un aspetto, tra l'altro non per tutta una legge, ma bisogna individuare un aspetto di una norma sul quale non si può dire questa legge è incostituzionale, la Consulta non lavora in questo modo, ma un aspetto di quella legge si dice che allora analizzano quel punto, cioè è una cosa completa. In realtà chi governa, come è normale in queste cosiddette democrazie, è la maggioranza parlamentare che rispecchia la maggioranza dei cittadini, perché è vero, non c'è stato un golpe in questi paesi, la maggioranza dei cittadini, di quelli che vivono nelle città che viviamo noi, attraversano le stesse strade, probabilmente così frequentano gli stessi mercati e gli stessi luoghi nostri, ha votato per questa maggioranza, così come l'altra parte ha votato per quell'altra, e non c'è molta differenza. Allora, di fronte a queste cose che facciamo? No, via questo governo, quell'altro, quale quell'altro? Se sono, l'abbiamo visto, sono tutti su questo terreno. Poi sul carcere ancora di più, fanno a gara a chi dice più carcere, buttiamo le manette, buttiamo la chiave. Allora, bisogna noi rilanciare, siamo pochi, siamo tanti, ci vorrà tempo lungo, dobbiamo prendere il toro per le corna questa volta, lanciare un movimento per l'abolizione del carcere, punto. Non c'è altro da fare, è inutile stare, d'altronde che il carcere non è riformabile, lo dicevano gli studiosi classici, l'ha dimostrato 25 episodi, 25.000 episodi, l'ultimo decreto, la riforma Orlando è stata buttata nel cestino dal governo, dalla sua maggioranza e da quella successiva, quindi è irriformabile, non si possono fare, intanto perché si perdono voti e poi perché è una struttura talmente rigida che non è riformabile, è inutile, l'abbiamo spiegato mille volte, ma... e poi la realtà lo dice, non è riformabile. Laddove hanno fatto delle riforme interessanti, per esempio nei paesi del nord Europa, adesso stanno tornando indietro, perché anche lì le destre, guardate l'Olanda, la destra è al governo, anche in Svezia sta avvicinandosi al governo socialdemocratico e quindi impone anche lì un ritorno indietro. Questa è la realtà. Allora, di fronte a questa realtà noi bisogna rilanciare. Il problema dal 31 vedremo di lanciare un'idea, di iniziare un percorso. Sarà lungo, sarà tortuoso, sarà difficile, lo sappiamo, niente è regalato. Sarà difficilissimo, però iniziamo un percorso abolizionista. Come è stato lungo e difficile, però alla fine si è raggiunta l'abolizione della schiavitù, così sarà lunga e difficile, ma alla fine raggiungeremo l'abolizione della schiavitù carceraria. They paved paradise, put up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum, and they charged the of people, a dollar and a half just to see 'em. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Please, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam. And a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. They paved paradise, put up a parking lot. E allora 15 e 15, difatti, come il manifesto che convoca appunto il 31 dicembre sotto Rebiva, dice salutiamo la fine dell'anno, salutiamo la fine delle galere, e poi sotto mettiamo fine alle prigioni e alla società che ne ha bisogno. Esatto, e questo è proprio il senso che diciamo che vogliamo così portare a tutti coloro, tutte coloro che verranno da noi. Ci sono altri appuntamenti. Intanto domenica scorsa, domenica 2, c'è stato un buon presidio sotto il carcere di Velletri. È un carcere piccolo nel quale però le situazioni diventano sempre più drammatiche, e soprattutto si nota un alto numero, di suicidi, stante la piccola quantità di persone detenute. Del secondo suicidio avvenuto in quel carcere hanno forti dubbi i familiari, gli avvocati, un po' tutti hanno forti dubbi che sia stato un suicidio. È abbastanza facile, immaginate, no? In celle diciamo riparate dagli sguardi, far diventare un omicidio suicidio. Basta che le guardie entrano in una cella, prendono, si tramortisce la persona detenuta, poi si fa il cappio e si appende questo cappio. Non è che è un posto, la cella è un posto appunto separato dagli sguardi. E quindi c'è stato questo presidio interessante, la galera uccidera, e ne hanno parlato i giornali, solo quelli locali ovviamente, però sono quelli che la gente del posto legge, quindi è importante questa, bisogna moltiplicarli chiaramente questi, queste andate sotto il carcere, così come bisogna moltiplicare la corrispondenza con chi sta dentro, lettere, cartoline eccetera. Oh, poi un altro appuntamento, cioè, ricordate la questione di Eneas, quel ragazzo che nel carcere di Pesaro, anche quel suicidio che non ha convinto nessuno che fosse un suicidio. Ebbene, Eneas fu trovato morto, la direzione disse un suicidio, però i suoi amici tutti, e altri carcerati cioè, dissero no, non è un suicidio, probabilmente l'avevano diciamo suicidato, quindi ucciso. E allora il problema è che questa cosa è andata avanti molte volte, poi ci sono stati presi sotto il carcere anche con scontri della polizia, insomma per uno di questi scontri la situazione è finita in tribunale. E allora ci sarà il 13 dicembre un presidio sotto il tribunale di Pesaro, la mattina presto. E allora per diciamo finanziare questa andata a Pesaro, e ci entrano dalle città intorno ma anche da Roma molti, si fa una cena al centro sociale ex SNIA domenica 9, a partire dalla sera alle 19 ci sarà una cena e poi musica per alietare la serata. Però l'importante è che il ricavato di questa cena, di questa serata, così si permetterà di finanziare appunto, no, sopperire alle spese per andare al presidio sotto il tribunale di Pesaro il 13 di dicembre. Baby, baby, sweet baby, you let me have it. E allora, come dicevamo all'inizio, ma come sapete tutti e tutte, perché l'hanno detto la televisione, i giornali e tutto quanto, il decreto Salvini, il secondo decreto sicurezza, cioè è l'ennesimo decreto sicurezza, il secondo perché è veramente a distanza appena di un anno da quello Minniti, dell'altra parte, diciamo, del Parlamento. È legge ormai, no? Ma le cose che parla, appunto, l'abbiamo detto, no? C'è una parte contro, diciamo, l'immigrazione cosiddetto, ma peggiora soltanto la condizione delle persone, sia richiedenti asilo sia quelli che vengono qui per altri motivi, e poi l'altra parte per il cosiddetto controllo urbano. E infatti c'è la dotazione del taser, la pistola a impulsi elettrici, che è data alle polizie municipali e alle città, diciamo alla polizia municipale dei comuni di più di 100.000 abitanti. Questa cosa, secondo il ministro degli interni ed altri elementi del governo, avevano pensato di darla anche alla polizia penitenziaria, cioè ai secondini, alle guardie, perché in carcere, cioè, quando c'è un movimento così, una ribellione di qualcuno, c'è da usare la pistola elettronica. Per questa volta il ministro della giustizia Bonafede ha detto per ora no in carcere, quindi per ora, però ha detto questo per ora, che lascia a dubbi che forse in seguito la metteranno. Considerate che nelle carceri italiane, in genere in quelle europee, non sono armate le guardie, hanno le armi nella caserma interna all'istituto penitenziario, però non le portano quando stanno così in servizio nel carcere, perché questo sarebbe molto pericoloso, sia perché potrebbero usarle, ma anche perché se le guardie vengono così sequestrate ai detenuti, significa avere un'arma, anche il taser avrebbe questa, quindi è per. Infatti nei Stati Uniti d'America, in altri paesi, per esempio sudamericani, dove le guardie sono armate, in realtà quando c'è una rivolta, una protesta, le morti sono molto più numerose, quindi non è una gran bella cosa far circolare armi all'interno del circuito penitenziario. Però questo per ora ha detto no, e quindi ci accontentiamo di questo no per ora. Anche qui dipende molto, ecco, e molti chiedevano, no, per questo decreto sicurezza la repressione diventa sempre più. Negli ultimi anni, nonostante che in questo paese non è che sta succedendo l'ira di Dio, non è che c'è una rivoluzione in corso, una guerra civile, è relativamente calmo, i reati stanno calando pesantemente, gli omicidi sono quasi azzerati, rimangono alti soltanto i femminicidi, ma quello è un problema strutturale di questa società patriarcale, quindi capitalistica, e quindi della culturale, cioè è nell'aria che respiriamo, nella cultura che ci portiamo appresso, nel modo d'essere, quindi è un problema un po' più complesso. Il resto invece, gli omicidi, le rapine a mano armata, i sequestri sono scomparsi, i reati stanno diminuendo, i dati del ministero sono questi, non è che ce li inventiamo noi. E nonostante questo le persone in carcere aumentano. Le leggi cosiddette svuota carceri, quelle che permettevano per esempio gli ultimi 18 mesi di carcere vanno fatti ai domiciliari, gli ultimi 4 anni in misura alternativa, tutte queste non funzionano, perché il meccanismo, la legge è stata fatta ma non è stato oliato, cioè reso più snello e veloce il meccanismo per accedere a queste misure alternative, a questi benefici, e quindi è tutto un po' un disastro. C'è poi il DASPO steso anche questo a tutti quanti, per prendere il DASPO non è che è necessario aver fatto qualcosa, purché si sia indiziati di qualcosa, quindi oppure per frequentazioni strane, insomma è una cosa che va anche oltre questa rischia la anticostituzionalità. Ma ho detto, è inutile dire, è certo che la gran parte è incostituzionale, ma non è che possiamo pensare che in Italia governi la Corte Costituzionale, non governa la Corte, quindi potrà intervenire su qualche particolare, e poi i procedimenti sono molto lunghi, ma governa questi qua, governano i rappresentanti cosiddetti del popolo, che gli ha dato il voto purtroppo, e questo è il problema, bisogna andare a parlare con la gente, perché se no queste cose, come avete visto, non è un problema soltanto italiano, ovunque si sta sviluppando questa estrema destra reazionaria che in alcuni casi è pure peggio del fascismo. Quindi chiamarla fascista, per esempio, ha dei tratti di misoginia peggiori del fascismo, alcune cose dette anche qui da questi governanti di oggi sono addirittura peggiori, state attenti. Senza, vabbè, per noi ormai fascismo giustamente anche un insulto, per dire fai schifo, no? Ed è vero, però ragioniamoci attentamente. Alcune espressioni di questi che vengono chiamati, che ne so, sovranisti, populisti, non so come chiamare questi qua, questa estrema destra che si sta affermando in Europa pesantemente, in alcuni tratti è molto peggio del fascismo, perché c'ha degli elementi veramente di ritorno al Medioevo, al feudalesimo, mentre il fascismo comunque sia reazionario, orribile, era un sistema moderno, cioè puntava al progresso, all'andare avanti, anzi pure eccessivamente. Ecco, questi sono momenti proprio di arretramento, di ritorno ai meccanismi feudali, e quindi in questo senso sono anche peggio. Beh, certo, non andranno, cioè non lo so che faranno, non dipende anche da noi. Però allora uno dice: che cosa facciamo rispetto a la sicurezza? La manifestazione si è fatta, se ne posso fare un'altra, se ne possono fare tante anche tutte le settimane come si faceva una volta, va bene, ma non basta. C'è un modo molto efficace, molto più efficace, molto più utile e funzionale per combattere la repressione. Anche qui vale quella parola d'ordine: non siete soli. Ossia, una persona ha presa in mano dalla repressione, e quindi il momento dell'arresto, che è sempre diciamo fatto di botte, cose eccetera, il momento dei primi giorni nelle celle di sicurezza dei commissariati o delle caserme dei carabinieri, e poi si entra in carcere, cioè questo è il percorso, no, dell'arresto. Ebbene, in quel momento lì, se gli uomini in divisa che tengono in mano questa persona sentono, non contano tanti regolamenti in quel momento, perché come ho detto, abbiamo visto tutti il film sulla morte del nostro Stefano Cucchi. Ebbene, quello che ha subito lui l'abbiamo subito tutti quando entriamo nelle maglie della repressione. Non è una novità che ti picchiano, non è una novità che il medico, quando vai lì con l'ecchimosi delle bruciature, non manco ti guarda, non è una novità che il giudice nemmeno ti guarda in faccia, e la gente, e le persone che prese in mano dalla repressione e conciate ben bene, diciamo, attraversano quel percorso lì. Non c'è stata grande novità tra quello che subiscono anche tutti quelli, Aldorandi, Stefano, Uva, tutti questi che sono morti nelle mani un po' pesanti della repressione. Non è che hanno subito un trattamento tanto particolare, forse appena un po' più duro, forse un po', ma è lo stesso trattamento che esiste, regolamenti o non regolamenti, come diceva quel commissario che sparò in piazza ai tempi degli scontri, nei tempi in cui la polizia sparava in piazza, e al processo il giudice disse: ma lei lo sa che la Costituzione vieta di usare le armi da fuoco nelle manifestazioni? E lui disse: in quei momenti non avevo tempo di leggere la Costituzione. Questo per dire, era un colonnello, un capitano credo, questo per dire, è così la situazione. Cambia se cambia il rapporto di forza, perché quelli stanno da una parte per far rispettare quest'ordine, dai secondini, la polizia, i carabinieri, la finanza, cioè, e quindi risentono del rapporto di forza che c'è tra chi contesta quell'ordine e chi lo vuole mantenere. Però non sta nei regolamenti. I regolamenti, ha detto, non li leggono in quei momenti, soprattutto se li dimenticano, anche se l'hanno letti. Quindi bisogna fare un'altra cosa, bisogna fare in modo che le forze che tengono, le forze della repressione, quando prendono una persona, un ragazzo, una ragazza, un uomo, una donna, eccetera, devono sapere immediatamente, visivamente, che questa persona è tutelata da decine e decine e decine di persone. Solo in quel momento il trattamento diventa possibile. Solo in quel momento. Voi pensate che in carcere, per esempio, c'è una regola semplicissima, elementare: le guardie, i secondini, che montano, poi montano sempre nel stesso reparto, il gruppo di secondini, quindi conosce i detenuti a menadito, sa a chi arriva molta posta, a chi non arriva posta, chi fa molti colloqui, chi non fa colloqui, chi ha, gli arriva sempre il pacco, i soldi, le cose, cioè chi ha dietro di sé dall'altra parte delle mura un sacco di gente che in qualche modo lo tutela, se ne occupa eccetera, e chi invece è solo e abbandonato. Ebbene, quando devono sfogare la loro rabbia e menare, a chi menano secondo voi? A quello abbandonato, è chiaro. Per questo quando diciamo mandate una lettera in carcere, una cartolina, è anche un modo per tutelare dalla repressione feroce la persona che sta dentro. È così, se arriva, se una persona è subissata da lettere e cartoline eccetera, la guardia immagino, perché la realtà è che dietro che ha molti amici, molte persone che stanno, che lo tutelano, che cercano di tutelarlo, e comunque in qualche modo non faranno, non farebbero passare indenne un eventuale pestaggio, e loro a queste cose le sanno valutare e ci stanno molto attenti. Queste sono le regole non scritte, ma sono quelle che funzionano. Quelle scritte in genere non funzionano, perché ve l'ho spiegato mille volte, i regolamenti parlano di avere l'acqua calda in cella, chi ce l'ha? Chi ce l'ha? Non diciamo, a volte non c'è nemmeno nella doccia centrale, insomma, lasciamo stare, parliamo di cose serie. Allora, quindi come opporci al decreto sicurezza, quindi alla repressione, in primo luogo è questo: organizzare gruppi di sostegno, chiamateli come volete, di solidarietà, non ha importanza il nome, chi ce l'ha più bello lo inventa, ma il problema è di avere questa pratica. Quando in un quartiere, in un territorio avviene l'arresto, così può andare uno sgombero, ecco, l'importante è che scattino immediatamente decine e decine di persone per dire no, noi siamo con questi e non si fa questa cosa qui. Questo è il punto. Intanto diciamo che oltre il decreto sicurezza, l'abbiamo detto un attimo fa, la presenza in carcere ha superato la soglia dei 60.000 al 29 dicembre, sono i dati del Ministero, al 29 dicembre 60.002, così come 51 suicidi e 135 morti per cause ancora da accertare. Questa è la situazione. Ora i suicidi stanno raggiungendo, manca ancora un mese, anche qui non si, speriamo di no, ma si raggiungerà la soglia di 60 suicidi, che sono le punte più alte, più estreme. Negli ultimi anni era calato questo numero, 40, 42, 46, di nuovo adesso siamo a 51 e l'anno non è finito. Da fianco di questo, quali sono dei numeri che ci danno il quadro di ciò che succede nelle carceri? Eccolo qua. Purtroppo sono dati che il Ministero non li dà, questi dati li danno invece i sindacati delle guardie, per diversi motivi. Uno, perché loro vogliono più soldi sulla busta paga, è ovvio, quindi essendo sindacati delle guardie dicono se ci stanno tante aggressioni, ci stanno tanti atti, attività critiche, no, eccetera, quindi noi dobbiamo lavorare di più, siamo sottoposti a rischio e vogliamo più soldi. Secondo, vogliono più aumento di organici, di persone, assunzione, che infatti qualcuno già ha già promesso, Salvini ha promesso l'assunzione, ebbene, però insomma, però il dato è quello, ce l'abbiamo da loro e lo prendiamo lì. Dovremmo anche qui costruire in ogni carcere rapporto con i volontari, che i volontari entrano in carcere, c'è un grosso, e da questi avere un po' le notizie precise. Loro non è che hanno i dati complessivi, però si può ricostruire poi partendo, insomma, comunque in un anno i casi di autolesionismo, cioè in cui le persone si tagliano, si fanno piccoli tagli, in genere dei tagli con la lametta o altre cose, sono 10.000 in un anno. Gli atti di aggressione o comunque scontri tra guardie e detenuti sono circa 8.000, in crescita questi. E le manifestazioni di proteste singole, cioè un detenuto che si barrica in cella o fa casa perché chiede qualcosa, non collettive, sono 11.000. Quindi, come vedete, le carceri non sono davvero pacificate, se questi dati sono rappresentativi della realtà, e sono abbastanza simili, perché poi se dicessero dati troppo sballati, pur essendo i sindacati dei secondini, il Ministero smentirebbe, no? Direbbe no, il carcere è pacificato, non ci stanno. Invece loro che stanno sul terreno, sul campo, lo sanno che non è così. Allora, intanto i dati sono, che cosa sono questi 10.000 casi di autolesionismo? ci sono anche tanti, circa 2-300, 51 sono i suicidi, ma sono circa 300 i tentati suicidi, che non riescono perché appunto il carcere è molto sovraffollato, cioè spesso il compagno di cella, i compagni di cella oppure uno che passa nel corridoio se ne accorge e interviene e si ferma. Ma i tentati suicidi sono tanti, quindi la gente a volte vuole sottrarsi alla galera in questo modo, e questo è comprensibile, non è un fatto, non sono malati di mente come dicono quelle persone che dovrebbero fare un altro mestiere, si chiamano psichiatri. L'associazione psichiatri ha detto che la gente si suicida in carcere perché sono malati di mente, e siete sani voi. Vabbè, perché ci stanno mille ragioni per suicidarsi in carcere. Perché è difficile reggere il carcere, eh? Andateci se pensate che sia una passeggiata. Dunque, allora perché questi 10.000 casi di autolesionismo e quei 250-300 tentati suicidi? Perché appunto la situazione in carcere è inaccettabile. Mancando una organizzazione per collettivi, per gruppi, che attualmente non c'è in carcere, speriamo che si formi, bisogna lavorare perché si formi, il singolo detenuto si trova nullo di fronte all'autorità carceraria, e quindi mette in moto un atto di protesta, che a volte urla, spacca la cella, oppure appunto la cosa più semplice da fare è si taglia, si fa del male, in modo che viene bloccato, viene portato in infermeria se si fa un taglio, a quel punto il direttore viene avvertito e in quel momento può parlare con alcuni educatori, il direttore eccetera. Il problema è che ci dobbiamo dire, il problema è che questo l'atto di autolesionismo è un modo per riacquistare la voce, visto che il carcerato non ha voce, gli è stata tagliata, preclusa, silenziata la voce, con l'atto di autolesionismo riacquista la voce. Spesso lo si fa per fermare un pestaggio, perché il pestaggio le guardie lo fanno senza che esca il sangue, sanno pestare e menare in modo che non esce il sangue, rimangono i lividi, gli ematomi, ma non esce il sangue. Se esce il sangue le guardie devono immediatamente accompagnare in infermeria la persona detenuta, e quindi il detenuto spesso, quando vede la situazione di pestaggio che si avvicina, si taglia le vene, così evita in quel momento il pestaggio, viene portato in infermeria e poi dopo si vedrà. Questo è, anche gli 11.000 manifestazioni di protesta non collettiva sono simili ai 10.000 casi di autolesionismo. 10.000 e 11.000 sono 21.000 casi in cui il detenuto urla, la persona detenuta urla che qualcosa non va bene e vuole poterlo dire, ma non ha nessuno a cui poterlo dire. Allora o si fa l'autolesionismo, così si viene a sapere che lui si è fatto male, perché viene portato in infermeria, i compagni c'era, cioè si mette in moto quel radiocarcere che racconta questa cosa qui, solo in quel caso se si fa male, oppure se fa una manifestazione di protesta singola, si barrica in cella, sfascia la cella, urla, butta l'acqua nel corridoio, eccetera. Queste cose qui. Domando, una domanda che faccio alle persone detenute: perché non trasformare questi 10.000 casi di autolesionismo e 11.000 manifestazioni singole in proteste collettive? È una domanda stupida, perché non c'è una risposta, o meglio, la risposta sta nel non nel singolo detenuto che ti può rispondere, quello dice io a chi mi rivolgo se c'è un problema e non me si fila nessuno. Quindi il problema è nostro, chi siamo, quelli che siamo fuori, dobbiamo mettere in moto una rete, un circuito di interrelazione col carcere per fare in modo che questi manifestazioni di protesta singole o atti di autolesionismo diventino forme di lotta collettive. Soltanto se c'è un appoggio esterno possono diventarlo, perlomeno la partenza è lì, poi una volta costituiti i collettivi interni alle carceri la cosa va avanti anche da sola. Questa è l'esperienza già fatta, è durata più di un decennio nelle carceri italiane, ha funzionato molto bene, ha sgrossato di parecchio. Considerate che prima del decennio delle rivolte il carcere italiano era tenuto ancora con i regolamenti fascisti del 30, nonostante tutte le liberazioni che si erano fatte il carcere non era stato liberato. E ecco, hanno cominciato, anche se poi il Parlamento hanno tradito sempre quelle che erano le promesse, però insomma dei passi avanti si sono fatti, perlomeno si è riacquistata la voce. C'è stato un periodo in cui la voce delle persone detenute arrivava perfino sui giornali, perché talmente riuscivano a mettere in moto le questioni. They paid paradise, put up a parking lot with a pink hotel, a boutique and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum, and they charged the people a dollar and a half just to see them. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. Farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Please, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They pay paradise, put up a parking lot. Allora, se voi leggete, appunto, ed è divertente, visto che più o meno tante persone hanno il computer e ci passano pure parecchie ore per lavorare, eccetera. Bene, ogni tanto andate a vedere ogni segnalato delle guardie, il SAP, il SAPE, l'USAP, eccetera. Sono questi tre più grandi, hanno il loro sito sul quale ci stanno appunto le aggressioni, gli eventi critici, come li chiamano, le aggressioni alle guardie. Ogni fatto, ognuno di questi eventi critici, se lo leggete bene, vedete per esempio qui l'episodio è avvenuto mercoledì mattina, grido un agente da un detenuto nel carcere a Venezia, denuncia il sindacato Sappe, si è scagliato contro un agente e gli ha lanciato uno sgabello addosso. Poi quest'altro ha sputato in faccia a un agente senza alcun motivo. Poi medico aggredito in carcere, contusi anche tre agenti. Poi e così via, no? Queste le leggete, sono divertenti, però danno un'idea. Carcere di Asti, un agente preso a pugni in testa da un detenuto. Poi in questo caso una protesta collettiva, 40 detenuti si sono rifiutati di rientrare in cella. Questa è molto una lotta collettiva molto interessante. Poi carcere di Frosinone, un detenuto allontanandosi dall'infermeria ha aggredito e spintonato, come dicono loro, due unità di polizia penitenziaria, cioè due secondini, rimasti contusi. Poi vari obus d'arsizio, incendio da fuoco al materasso e picchia gli agenti. Ora poi però, questo è quello che scrivono loro nei loro siti, no? Poi però un'altra notizia, tra queste infarcita un'altra notizia, questa qui, 11 poliziotti rischiano la galera. Perché? Perché si è aperto un giudizio a Milano presso la procura che ha chiesto il rinvio a giudizio di 11 poliziotti di polizia penitenziaria, tra ispettori e agenti di polizia penitenziaria del carcere di San Vittore, per la vicenda al centro di presunte intimidazioni e pestaggi subiti da un detenuto tunisino di 50 anni. Gli episodi risalirebbe al periodo 2016-2017, quindi sono recenti, e avrebbero avuto lo scopo di punire l'uomo perché nel 2011 questo tunisino, Ismail, di 50 anni, quando era in una cella del carcere di Velletri, vedete che ritorna Velletri a Roma, aveva denunciato altri agenti per furti in mensa e percosse. Cioè, nel carcere di Velletri, che è uno dei più orribili, appunto, giustamente è stato fatto questo presidio perché lì non funziona niente, nel senso che questo detenuto aveva fatto una denunciato alla magistratura e alcuni agenti perché rubavano alla mensa la roba che dovevano diventare mangiare alla mensa dei detenuti, no? Dove si cucina quella sbobba. Addirittura rubavano la roba e se la portavano a casa, quindi rimaneva solo la monnezza. E poi anche per i pestaggi che messi in atto nei suoi confronti e nei confronti di altri detenuti, perché avevano visto tutto il movimento e volevano denunciare. Bene, questo ha continuato le denunce, ha avuto la forza di continuare la denuncia, la cosa è andata a giudizio e adesso il pubblico ministero ha chiesto rinvio a giudizio, il processo per questi 11, e vedremo quali saranno gli e come andrà a finire. Quindi dico, loro sui loro siti le guardie raccontano che sono sempre il detenuto ad aggredire, poi però viene fuori che ogni tanto invece la procura interviene e dice: ma qui c'è un caso di pestaggi da parte delle guardie verso i detenuti. Ma insomma, è così d'altronde, no? Per cui insomma, questo è un problema del fatto di avere diciamo il polso di quello che succede in carcere. Questo è molto importante, altrimenti no, la realtà è quella, la realtà del sistema carcerario è quella, non è il sistema delle leggi, regolamenti, fatti e disfatti, di cui il tre quarti non vengono tenute conto, ma è quella di conoscere che cosa succede nella realtà. È la realtà il nostro come dire, la luce che ci guida nel cammino, no? È come si diceva una volta. E quindi dobbiamo saperlo. L'unico modo di saperlo è mantenere una fitta corrispondenza con tutte le carceri, con la gran parte delle persone detenute, e poi contattare anche appunto gran parte delle persone che fanno i volontari in carcere per avere notizie di prima mano, cioè appena uscite. Però considerate che le cose che succedono sono appunto un pestaggio, una rivolta, una protesta, il detenuto di quel reparto la sa, tutti i detenuti la sanno, quindi non gli sfugge niente, poi se le segnano, se le ricordano. Avviene così poche cose, nulla avviene in carcere, che quelle poche cose reali, che sono la protesta, un detenuto che fa botte con una guardia o che sfascia la cella, cioè, che vengono memorizzate fisse, e quindi i detenuti si ricordano tutte queste cose qui. È ovvio, perché non è che sono disturbati da altri fatti, perché lì non succede nient'altro, e quindi è importante avere queste notizie, è importante averle. If you Allora, 15:51, cioè arriviamo alla chiusura. E allora vi ricordiamo le presentazioni, poi sentirete anche lo spot. Se sentite Radio Onda Rossa c'è anche lo spot che va abbastanza frequente, che dà le indicazioni. Però noi ve le ripetiamo, la prossima è il 9, domenica 9, la presentazione al Nido di Vespe, e a partire dalle 19. Poi il 12, che è mercoledì prossimo, la presentazione al Centro Celle Aperte, sempre a partire dalle 19. Tutte queste presentazioni poi sono seguite da una cena. Poi il 13 dicembre, giorno dopo, il giovedì, alle 18:30, alla Casale Alba 2, dove presentano anche il lavoro di un gruppo di persone in contatto con detenuti, che si chiama Matricola 1312. E poi il 18 a Strike, Centro Sociale Strike, a partire dalle 19:30. Quello che volevo dire di queste presentazioni, ne abbiamo fatte a Bologna, qui a Roma già, sono interessanti perché si discute appunto di carcere. Però quest'anno, soprattutto abbiamo messo nel quaderno che accompagna l'agenda molti contenuti attuali, per esempio la pericolosità sociale, appunto il decreto sicurezza, tutte queste cose qua molto interessanti. Sarebbe opportuno, sempre visto che ormai il tempo c'è, che chi volesse proprio discutere queste cose si recupera l'agenda prima della presentazione, legge alcuni articoli in modo che ha poi ha conoscenze per discuterci. Ho letto questa cosa, secondo me è così e così, e inizia una discussione molto più fruttifera che non la presentazione da una parte verso il pubblico. E allora dove sta? Qui è Radio Ronda, la Radio Ronda Rossa è aperta tutta la giornata, ci stanno le agende, basta che venite qui, la prendete, ma sta anche nelle librerie di movimento già, e quindi potete comprare una copia e così si può discutere più concretamente di quella cosa. Perché è importante, come dicevo prima, cominciare a pensare perché noi con Scarciando abbiamo fatto questo esperimento, è venuto fuori questa conoscenza della realtà. Scarcianda appena uscita noi non pensavamo proprio che funzionasse, pensavamo fare una cosa, la tavola spacca, chi se ne prega, volevamo parlare di carcere e abbiamo detto, e ha incontrato invece un successo enorme, tanta gente ancora la chiedono, la vogliono, nelle carceri la chiedono da Trento fino giù a Caltanissetta, perché appunto la voce del carcere arriva dappertutto, e quindi ci chiedono di presentarla appunto in tutte le città italiane dal nord al sud. E allora quindi ha trovato molti consensi, però c'è sempre un però. Adesso vogliamo fare un altro passo, trasformare questo consenso, cioè di consenso alla critica al carcere, il carcere ormai non serve più, fa schifo, addirittura non è una soluzione alla criminalità, ma è il problema della criminalità, perché ormai tutti gli studi che fanno gli studiosi di criminologi dicono che il carcere alimenta la criminalità, che è ovvio, lo sapevano fin dall'inizio quelli che hanno creato il carcere, ebbene quindi è così ormai, dati la realtà appunto dice queste cose, adesso sono chiacchiere per più a qualche voto, come qualche cretino che sta al governo dice continuamente, e purtroppo altri cretini danno il voto, ma questo è un malanno passeggero, spero, di questa società. Però appunto il punto è che vogliamo avere il consenso, non solo il consenso, ci fa piacere il consenso, ma vogliamo avere la partecipazione, attività, che le persone si attivino. Ha detto, a volte non dico oddio che devo fare, no, non c'è da cambiare vita, non totalmente. Per esempio scrivere una lettera in carcere basta sì e no mezz'ora a settimana o mezz'ora ogni 15 giorni, che non è un tempo impossibile da trovare nei nostri ritmi pur frenetici di questa quotidianità imposta. Mezz'ora si trova, perché poi mentre va e torna la risposta, mezz'ora ogni 15 giorni si trova, quindi intratteniamo una corrispondenza con chi sta dentro, non è una fatica, uno si mette al computer, adesso scrive la letterina, la stampa, la imbusta e la spedisce, quando la riceve la lettera, la legge, ci vogliono 5 minuti, quindi non è un problema di tempo, è un problema di spazio mentale, quello sì. spazio psichico, direbbero alcuni, cioè di attenzione, di sentire questo come problema principale, quello di fare qualcosa per la situazione carceraria, repressiva. Chi vuole fare un po' di più, l'altra cosa, diciamo, andare sotto le carceri ogni tanto quando si convocano questi presidi sotto le carceri, qui vicino, non è che chiediamo di andare da qui a Milano, però è Velletri, era una passeggiata, e infatti molti ci sono andati. E poi lo stesso, qualcosa di più, fare, cominciare a parlare con le persone quando uno sta, che ne so, nel posto di lavoro o a scuola, oppure che ne so, ci sono per esempio stanno facendo delle autogestioni in alcuni licei occupati oppure autogestiti in queste. Ebbene, discutere di carcere è la cosa più normale, credo, no? Anche perché vi affacciate alla vita, e nella vita c'è il carcere. In questa vita in cui vi affacciate, cari ragazzi e ragazze delle scuole diciamo superiori, in questa vita in cui ci state affacciando, è importante e preponderante il carcere, così come la guerra, lo sfruttamento. Queste sono le caratteristiche di questa società, anche altre se volete, però queste sono fondamentali, i pilastri. Qualcuno diceva che i pilastri della società moderna capitalistica sono sostanzialmente due: il carcere e la fabbrica. Perché uno, il carcere aiuta a disciplinare quelli che poi dovranno essere i proletari operosi e disciplinati che mandano avanti le fabbriche. Quindi su questo si regge. D'altronde, quando sentite i grandi, no, economisti, parlano di produttività, parlano di chi la fa la produttività? Gli operai, appunto, e che i lavoratori, non è che la fanno i chiacchieroni. Gli altri fanno speculazioni cretine, ma se non c'è la produzione, la produttività, il resto sono chiacchiere, rimangono tali. Quindi appunto è importante parlare di queste cose, parlatene, e poi appunto con l'idea che la repressione, con la convinzione che la repressione si batte soltanto non lasciando solo le persone che vengono colpite dalla repressione. Per discutere tutto questo, intanto ne parleremo nelle presentazioni di Scarciata, ma ci vediamo il 31, perché tutti insieme, quella bella mattinata, speriamo che sia bella, ma anche se piove va bene lo stesso, proveremo a lanciare questo nuovo movimento anticarcerario per l'abolizione del carcere. Diciamo che iniziando dopo il primo decennio, primo ventennio del nuovo secolo, è ora di dire basta al carcere, basta sul serio, basta definitivamente. E allora ve lo diciamo da questi microfoni, buona libertà a tutti e tutti, e perché di carcere non si muoia più, perché si muore tanto, ma soprattutto anche di carcere non si viva, cioè il carcere deve essere abolito, deve essere cancellato dallo scenario attuale. Buona libertà a tutti e tutte.